sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Me l'ha raccontato un amico di Napoli. C'è lo zio che telefona a Nicolino e gli dice: "Uè, Nicolino, passami a papà." "Non posso." "E perché non puoi?" "Sta in camera da letto." "Passa a mia mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta pure essa in camera da letto." "Ho capito, è domenica, vabbè, e telefono fra poco." "Pronto, Nicolino, zio Antonio, passami a papà." "Non posso." "E perché?" "Sta in bagno." "E passa a mia mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta pure essa in bagno." "Ho capito, la camera da letto, bagno, sabato, domenica, vabbè, telefono fra un poco." "Nicolino, zio Antonio, passami a papà." "Non posso." "E perché?" "Sta in giardino." "E passa mia mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta in giardino pure essa." "E che stanno a fa?" "Stanno cercando a me." Ci sono tre vampiri che in un giorno come questo, di domenica, dicono: "Oggi sentiamo che sarà una bella giornata." E il primo comincia e se ne va, parte, torna col becco sporco di sangue, con la pancia gonfia di sangue e dice: "Com'è andata? Cosa hai fatto?" Dice: "Vedete quel campanile? Sotto il campanile, sulla sinistra, c'è un oratorio delle femminucce. È stato facilissimo, sangue di primissima qualità." Parte il secondo, torna anche lui tutto bello, contento, e dice: "Come hai fatto?" Dice: "Vedete quel campanile? Sì, a destra c'è l'oratorio dei maschietti. Sono andato lì, facilissimo, sangue eccezionale." Parte il terzo, torna dopo un po' col becco rientrato, un'ala rotta, tutto conciato, dice: "Cos'è stato?" "Vedete quel campanile? Io non l'ho visto." Diffidate da coloro che non sanno ridere.